Ecco, è tornato lo smitter normale. Chi c'è qua? Attenzione, canale 10, 10. Come 10? O Natali. Millo. Chi è avanti? È da prima che fanno bippi. Poi li mandi avanti e non parlano. Capito? Adesso ti stava mettendo la portante, c'era un fischio, ti stava mettendo la portante sotto. Sarà qualche frustrato. Mi ha doppio room, mi era al telefono. Potete parlare voi due, mi, io me ne sono andato a vedere Borolisi. Perché era nel dubbio? Dai qua. Se mi va a vedere questi frutti che non piace né a me, né a Coso, come si chiama, neanche a... Aiutami a dire, ma... A Giulio. Ehi, come ho detto a Natalino, ho detto al canale 10, vi ho barattato per un programma televisivo. Guarda che traditore. Vabbè, io vado, dai. Ma voi parlate tra di voi, avete perso la lingua. Vai, che traditore. Allora, d'ora in poi mi chiamo Giuda, come nominativo, Giuda. Giuda Iscariota lo chiamiamo. No, Giuda il traditore. Da un museo di Gugliato. E tradotto cosa vuol dire? Narabilu già. Boh, ciao. E vai a vederti a Bonuri, ci fa. Natalino, sto chiedendo che arriva a te, scusa. Ciao. Sì, andiamo mai, ciao.